Summertime di Elisabetta Fiorito. Benvenuti a Summertime, il rotocalco estivo che vi accompagnerà per tutto agosto e che andrà a curiosare attraverso gli avvenimenti estivi tra festival, teatro, danza, ma anche tra sagre e feste folcloristiche. Nelle prossime settimane girogagheremo per tutta Italia, tra Taormina Arte, La Versiliana, Ravello Festival, Restate Romana, Veneto Jazz Festival e tanti altri eventi per scoprire che cosa avviene nel nostro paese durante l'estate, durante la vostra vacanza estiva. E non solo, ci potete scrivere a summertime@radio24.it per segnalarci eventi, spettacoli, appuntamenti, incontri culturali che avvengono nei luoghi dove trascorrete le vostre vacanze. L'appuntamento per scoprire che cosa potete andare a vedere in serata è dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 qui su Radio 24, il sole 24 ore. E oggi allora iniziamo subito da un grande classico. È vero quello che dicono di te? Dicono che tua madre è una dea immortale e che nessuno ti può uccidere. Allora farei a meno dello scudo, non credi? Ma il tessaliano che affronterai è l'uomo più grosso che abbia mai visto. Io non mi batterei con lui. Ecco perché nessuno ricorderà il tuo nome. E passiamo a parlare di Troy, ma soprattutto passiamo a parlare dell'Iliade. Avete riconosciuto Brad Pitt ovviamente nella versione italiana di un colossal come Troy, un po' una versione volgarizzata di quello che è stato l'Iliade di Omero, ma noi vogliamo andare invece a parlare di uno spettacolo teatrale, uno spettacolo un pochino più su come nel vecchio continente si usa quando si parla di Omero, da Hollywood. Passiamo a Sarsina, stasera in scena l'Iliade, il sublime e l'eroico, uno spettacolo con la regia di Beppe Arena all'interno dell'Emilia Romagna Festival, e questo spettacolo unisce prosa e musica, in quanto il direttore dell'Emilia Romagna Festival, Massimo Mercelli, flautista, in scena per congiungere quello che è la prosa, quello che è la parola alla musica. Buongiorno Massimo Mercelli. Buongiorno a tutti. Allora, Emilia Romagna Festival va in scena da quando a quando? Emilia Romagna Festival parte quest'anno il 29 giugno, quindi già partito, siamo a metà del cammino e termina come di consueto l'11 settembre. È un festival dedicato alle arti in generale, quindi non è solo musica ma anche prosa, danza, commissioni. E quest'anno presente una cinquantina di concerti sparsi per la regione da cui viene il nome, per l'Emilia Romagna. Lei diventa a soli 19 anni il primo flauto del Teatro La Fenice di Venezia ed è un flautista di fama internazionale. Come fa a unire questa passione per la musica, quindi che porta sempre un po' fuori, no? Un po' fuori dalla realtà, ad organizzare un festival così grande come l'Emilia Romagna Festival? Di tutto c'è la passione, che è un motore inestinguibile, la passione per la musica, non solo per il flauto ma per la musica e per l'arte in generale. Poi devo dire che ho avuto talmente tanto dalla musica che ho pensato di dover dare qualcosa anche alla musica e alla cultura, quindi così è nato Emilia Romagna Festival, è diventato un festival fra i più importanti, che ha avuto tanti riconoscimenti, non ultimo questo premio che abbiamo ricevuto al Centro Pompidou a Parigi dal commissario europeo Figel e dal vice ministro della cultura francese. Ecco, lei a un certo punto ha deciso di organizzare questo festival. Quali sono gli eventi? Poi parleremo più specificatamente dell'Iliade di stasera. Quali sono gli eventi in programma ad agosto? Beh, ad agosto avremo una bellissima serata con Michael Nyman, un requiem di Verdi con il complesso dei romantici dall'Olanda, 180 esecutori, tanta musica da camera. Veniamo adesso da una settimana molto intensa dove abbiamo avuto Philip Glass in Piazza Maggiore a Bologna con circa 10.000 spettatori, dove c'è stato un bellissimo gala lirico con Cosa e Cura e la Filarmonica Toscanini. Insomma, gli eventi sono 50, non è il caso di ricordarli tutti, però ce n'è da piccolissimi, da giovani che vogliamo presentare e lanciare a grandissime stelle della musica, dell'arte, della danza. Quindi ci risentiremo nel corso di questo mese, ovviamente, qui a Summertime per l'Emilia Romagna Festival. Lei suona il flauto in questo spettacolo, perché il flauto con l'Iliade che cosa ha a che fare? Flauto e Grecia? Beh, il flauto è tutto degli strumenti più antichi, perché il principio per cui suona è quello di una canna dentro la quale il vento si infila e la fa sibilare. Nulla è cambiato da allora. Quindi il flauto si trova nelle tombe egizie, nelle tombe cinesi, nelle tombe sumeri, e anche a Ilio si trovavano flauti. I flauti e i tamburi erano strumenti di guerra. Il flauto è anche uno strumento che in tantissime culture evoca lo spirito dei morti, quindi è un po' un tramite fra noi e l'aldilà. Tra noi e gli dèi. Anche, sì. E quindi in questo caso è uno strumento che si sposa molto bene, specie per il lavoro che si è fatto assieme al laptop, questa commissione di suoni acustici appunto del flauto, insomma il flauto soprano e il flauto basso, e appunto Dario Arcidiacono al laptop produrrà suoni veramente affascinanti, dalle percussioni all'arpa, alla voce, allo shashfa. All'interno di questo Emilia Romagna Festival, la città di Sarsina, ci dice Beppe Arena, direttore artistico del Plautus Festival, si è specializzata nella prosa. Lo spettacolo di stasera è Iliade, il sublime e l'eroico. Ovviamente tratta del grande dramma di Omero, ma come? Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Come la tradizione, la parola è sicuramente la cosa più importante della grande tragedia greca. Ma in questo spettacolo, come è giusto che sia, anche la musica diventa protagonista. Ho avuto la fortuna di dirigere questo grande attore che è Sebastiano Lomonaco, Massimo Mercelli, come ha detto lei, uno dei più grandi flautisti a livello internazionale, e Arcidiacono, che farà le musiche, diciamo, quelle elettroniche, l'ha già composte, in diretta. Quindi diciamo uno spettacolo classico, come è nella tradizione del Plautus Festival, che il Plautus Festival da anni propone spettacoli classici, ma con la novità, questo lo dico per chi è appassionato di queste cose, di poter sentire dei suoni diciamo antichi, che Massimo Mercelli riesce a riprodurre con un flauto particolare, che sono molto vicini a quelli che probabilmente erano i suoni dell'antica Grecia. Quindi non solo la parola, che già si è sentita più volte in altri spettacoli, ma il suono, che era tra l'altro determinante insomma, per gli antichi greci, anche nel modo di pronunciare le parole, di recitare o declamare i versi. Le rappresentazioni, vedo, del Plautus Festival sono nella suggestiva Arena Plautina, posta ai piedi del borgo medievale di Calbano. Che vuol dire? È un teatro greco, un teatro medievale? Ha un'acustica giusta per rappresentare l'Iliade? Allora, purtroppo non è un teatro antico, è un teatro costruito circa, un anfiteatro costruito circa 15 anni fa, malgrado questo però devo dire, io faccio per lavoro il regista, quindi i teatri ne ho visti, ha un'acustica perfetta. L'architetto che l'ha progettato ha deciso di costruirlo in un luogo particolarmente adatto proprio per questo tipo di motivo, proprio per l'acustica, quindi anche se lo spettacolo non è ambientato in un teatro greco, comunque l'acustica sicuramente non risentirà, e tra l'altro devo dire che anche il luogo dal punto di vista paesaggistico è particolarmente interessante, si vede tutta la vallata della Valle del Savio, quindi dal punto di vista anche del fascino visivo, e questo un po' ricorda i teatri greci, l'ambientazione è perfetta per questo tipo di spettacolo. E quindi è all'aperto, ovviamente. All'aperto. Allora, in che senso Iliade, il sublime e l'eroico? Quali sono i personaggi? Cioè, c'è un Achille, c'è un Ettore, c'è il duello verbale. Che cosa succede? Diciamo che c'è davvero tutto, sono tutti i personaggi di Iliade, i più famosi. Voi avete fatto sentire prima un pezzo del film Troy, e chi anche non avesse, diciamo, dimestichezza con questi personaggi, ha visto il film o comunque ne ha sentito parlare, può comunque godere lo spettacolo, che è stato ricostruito, il testo è stato scritto da Monica Centanni in modo serio, filologicamente corretto, ma anche in modo che il pubblico possa seguire senza nessuna difficoltà. I fatti salienti ci sono tutti, si parla di amore, di guerra, proprio di sublime ed eroico, insomma, e penso davvero che chiunque venga a vedere questo spettacolo possa, anche se non ha dimestichezza, ripeto, col teatro classico, possa ritrovare parte di sé in questi personaggi, insomma, nel loro destino, nel loro modo di parlare, nel loro modo di combattere, di amare. Beh, come sempre, come in tutti i grandi poemi tragici, c'è il duello principale sempre fra il sentimento e il dovere, fra il duello fra l'amore per la patria e magari l'amore per una donna, insomma, questo c'è, e se ci pensiamo, in effetti, poi è un po' il duello che quasi noi tutti, diciamo tutti noi, insomma, più o meno, chi più chi meno, insomma, almeno una volta nella vita, poi si trova a dover combattere, tra virgolette, o perlomeno dover decidere, insomma, ecco perché poi ha senso riproporre a teatro e non solo a scuola l'Iliade di Omero e tanti altri tragici. Allora, Beppe Arena, direttore artistico del Plautus Festival, regia dello spettacolo Iliade, il sublime e l'eroico, lo ricordiamo, che è uno spettacolo, una riduzione di Modica a 100 anni, giusto? Poi sì. Con Sebastiano Lomonaco e Dario Arcidiacono al laptop e Massimo Mercelli al flauto. Massimo Mercelli, direttore artistico e fondatore dell'Emilia Romagna Festival, in collaborazione quindi in questo spettacolo, la città di Sarsina, metà prosa e metà musica, può coesistere, ce lo conferma Massimo Mercelli? Sì, lo confermo, tra l'altro con Sarsina è una collaborazione che va avanti da anni, una collaborazione molto felice che ha toccato il culmine l'anno scorso con le celebrazioni per i 1000 anni della cattedrale di Sarsina, con la prima esecuzione mondiale di Vuoto di anima piena, la cantata mistica scritta e diretta da Ennio Morricone per flauto, orchestra e coro, che è stato un evento veramente che mi ha fatto parlare tutta Europa. E noi siamo molto contenti di questa collaborazione con Beppe Arena, un regista che stimo tantissimo. La mia passione è quella di uscire un po' dal seminato di quello che era l'accademico, smettere di portare la gente al museo, di cercare nuovi linguaggi più vicini a mondo d'oggi, ma basati su solide cose, come per esempio l'Iliade sposa perfettamente quello che ha detto Beppe poco fa, l'Iliade è un grande classico, deve essere insegnato a scuola, la gente deve conoscere perché è qualcosa che segna il cammino dell'umanità. E ricordiamo che sempre al Plautus Festival il 10 agosto, ma ci risentiremo, La Tempesta di William Shakespeare e molti appuntamenti all'Emilia Romagna Festival. Allora questa sera, ore 21, in provincia di Forlì Cesena, Arena Plautina, posta ai Borgo Medievale di Calbano, abbiamo detto Iliade, il sublime e l'eroico. I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab. Adesso andiamo a Genova, a Lunaria Festival, Piazza San Matteo, ore 21:15. Vi segnaliamo questa sera la prima nazionale di Sguardi, un nuovo spettacolo della compagnia Diabasis Ballet. Coreografa Maria Grazia Sulpizzi e poi uno dei ballerini è Stefano Tubolini. Sguardi, uno sguardo verso l'essere umano con le sue debolezze, le sue contraddizioni, la sua bellezza dell'essere imperfetto. Maria Grazia Sulpizzi, che cosa vuol dire? Insomma, parole odierne, comprensibili alle persone che Non guardano questo balletto perché siamo in radio, però lo devono immaginare. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Innanzitutto appunto è uno sguardo verso l'essere umano in una società dove si vuol diventare quasi tutti simili, si ha difficoltà nell'ascoltare, si ha difficoltà nell'esprimere le proprie emozioni. Noi abbiamo cercato di esprimere queste emozioni, di lasciare perdere un pochettino la parte esteriore dell'essere umano, ma di lavorare sulla nostra parte interiore e quindi di donare tutte le nostre emozioni al nostro pubblico. C'è da dire che lo spettacolo è diviso in 3 quadri coreografici. Il primo quadro coreografico si intitola Percorsi, produzione Danzarte 2008, che ha vinto il premio José Manuel Garrido al Teatro di Madrid nel 2008, il premio Ville de Biarritz nel 2008. Percorsi parla di colori, sono il punto di partenza di questa ricerca coreografica e la danza è una visione onirica e i danzatori sono interpreti poetici di questo sogno a colori e donano i loro corpi carichi di energia, di sensualità e di forza emotiva, in un'evoluzione appunto fatta di sentimenti, di colori e di gesti. Colori nel senso che ci sono le luci che accompagnano questi colori diversi a seconda dei movimenti, il movimento esprime un determinato colore? Esatto, i movimenti esprimono determinati colori, i costumi sono estremamente colorati e le luci rafforzano, sottolineano i colori di questa coreografia. Mentre il secondo quadro coreografico si intitola Interferenze, completamente diverso da Percorsi, è la nuova produzione 2009 che ha debuttato il 7 giugno sempre in Spagna a Teatro di Madrid ed è una coreografia per 3 donne che si sovrappongono in azioni, movimenti e gestualità. È un gioco al disturbo, si intralciano reciprocamente, ognuna di loro deve fare i conti con le intromissioni che la vita ci presenta, ma deve anche evitare le interferenze create dalle altre. È quindi una coreografia in equilibrio tra gioco e realtà e appunto sono 3 ballerine, 3 danzatrici che lavorano in questa coreografia. Quindi somigliano, diciamo così, rappresentano le varie tappe della vita di una donna oppure sono 3 personalità diverse queste donne? Sono 3 personalità diverse, ma nello stesso tempo rappresentano anche le tappe della vita di una donna, quindi con tutte le difficoltà e le interferenze che la vita ci presenta quasi giornalmente, soprattutto a noi donne, ma sempre con un ottimismo e una speranza. L'ottimismo e la luce è sempre il nostro filo conduttore proprio a livello coreografico, a livello di compagnia, ci piace sempre finire verso la luce, cioè verso l'ottimismo e questo è il nostro scopo e il nostro linguaggio. Il terzo quadro coreografico invece è Respiro Imperfetto, è sempre una nuova produzione 2009 di Danzarte per la compagnia di Abasis Ballet che ha debuttato in anteprima nazionale a Barletta il 20 luglio, quindi recentemente ad Apulia Art Festival, scena mobile. Respiro Imperfetto è appunto la continua ricerca della perfezione esteriore da parte dell'essere umano in questa società ci conduce in maniera inesorabile verso l'isolamento emotivo e non ci si ascolta più, non si ascolta più. E noi come danzatori e come coreografa ci siamo fermati e abbiamo ascoltato il nostro respiro e il respiro degli altri. Abbiamo utilizzato Vivaldi come colonna sonora e Vivaldi ci ha aiutato con la sua armonia a tradurre il respiro in movimento. Chiaramente un respiro imperfetto perché è l'unione delle ansie, degli isolamenti, delle prigionie emotive che man mano però si liberano. La gestualità che contraddistingue questo lavoro coreografico è utilizzato in maniera ripetitiva e ossessiva, appunto per sottolineare la bellezza dell'imperfezione e per questo quadro coreografico gli interpreti sono tutta la compagnia. Ecco, però l'imperfezione, detto poi da dei ballerini, è un po' difficile. Allora, Stefano Tubolino, lei che quale quadro interpreta e poi come può un corpo così perfetto, una macchina perfetta come quella di un ballerino, rappresentare l'imperfezione? Non è un po' difficile? No, allora, iniziando con la prima domanda, interpreto il primo e il terzo pezzo, quindi Percorsi. e Respiro imperfetto. Come l'imperfezione viene sviluppata, appunto, come ha già detto Maria Grazia, tramite il movimento. Un ballerino deve a quel punto proiettarsi nel desiderio della coreografa e trasmetterlo col fisico, col corpo, nella perfezione del corpo. Ora, un corpo come quello di un ballerino è comunque modellabile sotto vari punti di vista, quindi si riesce anche a, tramite quello che si pensa, a trasformarlo in movimento. Ecco, lei quante ore si allena al giorno? Io sono 3 ore d'allenamento come lezione, più poi logicamente le prove. Da quanto balla? Sono 7 anni ormai che ballo con Grazia. E qual è stato il suo excursus? Quando ha iniziato a ballare da bambino? Non proprio da bambino, ho iniziato a 16 anni, ho iniziato leggermente, abbastanza in ritardo a dirla tutta. Abbastanza in ritardo, ecco. Sì, perché... molti film, no, rappresentano quello che è il dramma dei ballerini, questi muscoli strappati, queste cavigliere, insomma, è proprio così, è così difficile portare in scena delle emozioni attraverso il proprio corpo? Più che difficile è faticoso, sia fisicamente che mentalmente, appunto. Fisicamente perché comunque allenamento, ore d'allenamento, ore di prove che impegnano il fisico. Mentalmente perché c'è anche un discorso tutto di interpretazione personale del pezzo in base a quello che chiede la coreografa. Cavigliere, ginocchiere, tutti comunque oggetti che riescono ad aiutarti in qualche modo. Ecco, in questo spettacolo qual è il momento in cui lei si sente proprio di aver trasmesso qualcosa? Qual è un movimento che le è sembrato attraverso la coreografa all'inizio anche abbastanza strambo e invece poi è un movimento che rappresenta un'immagine interiore, anche psicologica? Probabilmente alcuni movimenti del terzo pezzo di Respiro imperfetto ci sono delle contorsioni del corpo che all'inizio non comprendevo perfettamente, poi entrando nel pezzo e ascoltando quello che mi chiedeva Maria Grazia sono riuscito a interpretarli a modo mio, a farmi, come dico io, un film in testa e a riuscire a modellarli in modo tale da dargli un senso e da trasmettere qualcosa. Maria Grazia Sulpizzi, le musiche sono di Vivaldi, per quale motivo? In un balletto moderno? Sì, in un balletto moderno le musiche di Vivaldi. Io adoro Vivaldi innanzitutto e ho trovato che per Respiro imperfetto fosse la colonna sonora esatta, perfetta, precisa, che sottolineasse quello che io volevo dire. C'è da dire che Vivaldi è appunto la colonna sonora per Respiro imperfetto. In realtà per Interferenze abbiamo utilizzato dei compositori francesi, Torgue Open, mentre per Percorsi Armand Amar. Quindi sono 3 colonne sonore completamente diverse una dall'altra, 3 quadri coreografici completamente diversi uno dall'altro, ma che poi alla fine tutti vogliono dire la stessa cosa, cioè le nostre emozioni donate al pubblico. Quanto dura lo spettacolo? Quanti ballerini in scena? Lo spettacolo dura 1 ora e 10 minuti senza intervallo, 7 ballerini in scena. Quindi 7 ballerini che si alternano, di cui ha detto lei, in un quadro 3 donne. Quante donne e quanti uomini? Perché gli uomini sono sempre più difficili da trovare. Sì, esattamente, 6 donne e un uomo. Ah, Stefano, quindi Stefano è la star, ti senti un po' la star, Stefano? La star in mezzo a tutte le donne, beato tra le donne, come si suol dire. Quindi un pochino sei il punto di unione di queste altre ballerine, o no? Diciamo che riesco ad amalgamare il tutto. Allora, ricordiamo Genova, Lunaria Festival 2009, Piazza San Matteo, ore 21:15 questa sera, Prima Nazionale di Sguardi, il nuovo spettacolo della compagnia Diabasis Ballet, coreografa Maria Grazia Sulpizzi e sulla scena Stefano Tubolino. Summertime. E torniamo a Summertime, lo ricordiamo, il vostro rotocalco estivo per scoprire che cosa avviene, che cosa potete andare a vedere di arte, teatro, cultura, spettacoli, eventi, mostre, sagre folcloristiche. Adesso andiamo a Capalbio, andiamo tra i VIP di Capalbio, andiamo in una delle località più importanti della nostra Italia, soprattutto d'estate, per parlare di Capalbio, ma per parlare soprattutto della galleria Il Frantoio. Abbiamo con noi Maria Concetta Monaci, organizzatrice appunto del Capalbio Occhio per Occhio. Buongiorno. Buongiorno. Allora, lunedì 3 agosto, cosa ci propone la Galleria Il Frantoio? Intanto, che cos'è questa galleria? È veramente un frantoio? È assolutamente veramente un frantoio che fino agli anni Ottanta ha prodotto del stupendo olio, poi dopodiché è stato reimpiegato a nuova vita e in questo momento è uno spazio, non lo definiamo tale, parte però dall'attività principale che è la ristorazione, poi ho introdotto la prima libreria a Capalbio che è tra l'altro molto ben seguita da tutti gli scrittori capalbiesi oltretutto, e ho una piccola boutique e ancora poi e soprattutto lo spazio espositivo. E allora partiamo un attimo dall'attività gastronomica. Qual è il piatto forte del frantoio? Ma il frantoio ovviamente non potrà mancare mai il cinghiale alla cacciatora, nelle sue pappardelle, nel patè, in tutti i tipi di affettati. Il cinghiale è il vero re di Capalbio e noi lo onoriamo. Poi comunque sia un ristorante che propone anche piatti di mare e comunque tutto nella tradizione maremmana rivisitata. Si deve assolutamente invece visitare la Galleria Il Frantoio perché le vostre attività culturali sono tante. Intanto c'è una personale di Sandro Chia. Chi è questo artista e che cosa raffigura? Sandro Chia è, a detta di tutti, uno dei maggiori esponenti dell'arte contemporanea, è un protagonista, fondatore della transavanguardia alla fine degli anni 70 e un personaggio che ha avuto in questi anni la capacità, la forza creativa di riproporsi sempre in maniera appunto estremamente singolare. È presente in questo momento anche in Biennale in Venezia e da noi è presente con una collezione unica, sono 72 disegni esposti per la prima volta, dove si ripercorre un po' tutta la vita artistica di questo veramente favoloso pittore, in cui si ritrovano i suoi elementi classici, la figura umana nella sua solitudine, virilità, la donna nella sua presenza molto forte nella vita di tutti, della natura, e poi soprattutto sono pezzi unici in quanto per ognuno di questi l'artista ha creato una cornice con del materiale in legno di recupero, veramente una cosa unica. Quanto sono grandi i quadri? Arrivano al massimo 60 centimetri, 65, sono tutti disegni su carta, tecniche miste, con carte peraltro, anche questo estremamente singolare, recuperate di ogni genere, block notes, fogli da disegno oppure fogli diciamo di quaderno, in cui l'artista veramente ha disegnato e lavorato con tutto, dall'acquarello alla penna a sfera, e ci ha regalato un lavoro unico. Ecco, a parte Sandro Chia, che cosa avete intenzione di proporre ad agosto? Allora, Sandro Chia noi lo prolungheremo, avremmo dovuto chiuderlo proprio il 3 d'agosto, ma in realtà lo prolunghiamo a grande richiesta fino al 23, e proprio per la natura delle sue opere, per lo spirito stesso dell'artista che è grande, attento, molto attento alla natura e alle emergenze di questa era, lo inglobiamo in Planet Watch. Planet Watch è un momento in cui parleremo di ambiente, parleremo appunto dell'attenzione a consumi sostenibili e intendiamo semplicemente fare della riflessione quest'anno sul tema dell'acqua. Infatti Planet Watch è la sua seconda edizione e quest'anno le gallerie verranno allestite da telespazio con delle immagini sensazionali della Terra vista da satelliti, da Carmina Campus, l'azienda di Ilaria Fendi Venturini che è molto impegnata in un'attività di recupero di materiali e poi insomma di sostenibilità dell'ambiente. Avremo appunto Sandro Chia e la fotografa Patrizia Savarese, che fa degli splendidi lavori di intorno al nudo in acqua, una cosa veramente unica. Cioè, quindi, intorno al nudo? Sì, fa, sì, ho sentito bene. Di nudo. Andin si ricerca personalmente appunto la plasticità dei corpi nudi, però questa volta nell'acqua, quindi ha tirato fuori delle cose estremamente poetiche. Quindi molto capalbiesi, molto in tema, perché chiaramente la vostra acqua del mare è la più pulita d'Italia, no? Ha passato la goletta verde, è ovvio, no? Ha passato la goletta verde, abbiamo le bandiere, Legambiente ci ha premiato per anni e anni di seguito, no, assolutamente, veramente è uno dei tratti di mare più belli, mi permetto di dire, della Toscana, ma poi insomma... chiamo a sfidare l'acqua di Capalbio. E poi anche un po' mondana Capalbio, ma a questo frantoio vengono anche ovviamente i VIPs, o no? I VIPs vengono, partecipano, sono chi protagonisti... sulla costa toscana in questo periodo? Ma ci sono, ci gravitano, ci passano tutti, o come meteore, come ospiti, o perché hanno magari case in affitto o di proprietà in zona. Però è più politico, no? Ma non propriamente più politico, abbiamo passato un fine settimana divertentissimo con la Cabello e Chicco Testa, per dire che di politico forse hanno molto poco. E poi comunque il bello è che tutti veramente partecipano, tutti peraltro scrivono libri e tutti presentano i loro libri a Capalbio e quindi parliamo divertendoci, scherzando e molto seriamente un po' di tutto, e tutti partecipano all'attività anche del frantoio, perché diciamolo pure, il frantoio ha avuto origine anche proprio come galleria grazie all'intuizione di Filippo D'Averio, grazie a contatti creati da galleristi, critici e comunque gli artisti stessi che vengono e si sentono ad interpretare lo spazio. E quindi noi viviamo di VIP, diciamo, cioè, però introducendole, vivendole come persone normali e come amici. Di VIP e di cinghiale, a quanto abbiamo capito. Allora ringraziamo Maria Concetta Monaci, lo ricordiamo, organizzatrice di Capalbio Occhio per Occhio, ma tanto ci risentiremo durante questo mese a Summertime. E ricordiamo anche che a Capalbio Scalo non ci sono molti VIPs, ma c'è una cosa molto carina, che è la festa della birra dal 3 al 9 agosto, un po' più popular, Maria Concetta, giusto? Ma questa festa della birra. La vita vera è un miscellanea di tutto questo, e noi siamo tutto questo. E allora dal 3 al 9 agosto anche la festa della birra a Capalbio Scalo, magari per digerire il cinghiale. E adesso facciamo un salto nel passato. C'erano una volta tre ragazze che frequentavano l'Accademia di Polizia. Oltre ad essere intelligenti, le tre ragazze erano anche molto carine. E ve le ricorderete sicuramente, erano le Charlie's Angels, magrissime come voleva la moda anni 70, bellissime come Farrah Fawcett, e potremmo anche rivederle, perché dal 1 agosto, quindi da questo weekend, è partito il canale Fox Retro su Sky, che ci accompagnerà tutta l'estate. Allora abbiamo con noi Fabrizio Salini, vicepresidente Entertainment Fox Channels, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, che cosa potremo vedere su questo nuovo canale Fox? Beh, cosa potremmo vedere? Tantissime serie TV che, come dire, hanno segnato per alcuni l'infanzia, per alcuni la giovinezza, e comunque tutte le serie TV che hanno in qualche modo segnato un'epoca televisiva. Come citava lei, partiamo con Charlie's Angels, ma poi avremo i Jefferson, Arnold, Sasuke Hutch, Miami Vice. Potrei andare avanti ancora per molto, poi se mi fermate mi fermo. Quindi tutti un po' anni 70, no? Anni 70 e 80. Ricordiamo la macchina di Sasuke Hutch, che era bellissima, rossa con la freccia bianca. Oppure anche i Jefferson, che avevano finalmente la lavanderia a New York, ed erano praticamente emancipati rispetto agli altri neri americani. Chissà oggi che cosa direbbe Mr. Jefferson a vedere Obama alla Casa Bianca. Ci saranno anche dei riferimenti, siamo quasi in una macchina del tempo ideale, e dei riferimenti e delle anticipazioni già i Jefferson in qualche modo le avevano fatte. Però vi invito a guardare il canale e capire come e dove. Allora, comunque la novità grande è che potremo vedere poi queste serie televisive anche in lingua originale, perché noi le abbiamo sempre viste solo in italiano. Bah, assolutamente, quindi in qualche modo, come dire, possiamo affermare che ci saranno delle prime visioni per quanto riguarda la lingua originale, cioè mai erano state proposte in questa versione e quindi di questo siamo, come dire, molto, assolutamente molto orgogliosi. Però non ci saranno solamente serie TV, questo lo vogliamo precisare. Che cosa c'è altro? Il nostro lavoro è stato quello di, come dire, incastonare all'interno del palinsesto delle chicche. Avremo ad esempio la nostra retroclassifica, faremo un viaggio nel tempo sulle classifiche musicali e andremo e le ripercorreremo anno per anno, e quindi ogni settimana proporremo la canzone più ascoltata nella settimana di 20, 25 o 30 anni fa. Poi avremo le retrolezioni. Che cosa sono le retrolezioni? Sono sostanzialmente delle lezioni dove si insegna e dove si propone ai nostri spettatori come utilizzare il telefono a tastiera, piuttosto che l'antenna analogica, piuttosto che il telecomando. Insomma, facciamo un viaggio nel tempo, ma senza mai strizzare l'occhio alla nostalgia. Anzi, quello che vogliamo fare è ripercorrere un'epoca televisiva, che però ci dà modo anche di riflettere sull'epoca televisiva attuale. Quindi, insomma, vedremo delle cose, avremo delle Top of the Pops un pochino, no? Come era Disco Ring. Assolutamente. Come era il famoso Disco Ring. Alle 9, che poi è un po' il prime time, però sì. Forse non proprio dei telefilm, magari dalle 7 alle 11, che cosa proponete? Dalle 7 alle 11? Cioè dalle 7, 8, 9, insomma, sono proprio i telefilm quelli su cui puntate? Ci sarà sicuramente Mork e Mindy, Love Boat, appunto i Jefferson, e poi abbiamo strutturato, avremo anche noi un prime time, come dire, di tutto rispetto, perché abbiamo organizzato alcune serate tematicamente, quindi in alcuni casi avremo dei retro movies, vale a dire proporremo per la prima volta in Italia la prima e la seconda parte degli episodi delle singole serie, e tutti insieme, quindi ci saranno 2 ore di Chips piuttosto che 2 ore di Love Boat con la prima e la seconda parte unite. Avremo delle serate dedicate ai miti e leggende, ovvero sia attori di calibro che hanno partecipato a singoli episodi o con cameo o con delle vere e proprie apparizioni da protagonisti, ne cito solamente alcuni: Frank Sinatra, Sylvester Stallone e tantissimi altri. Kim Basinger, Sammy Davis Jr., insomma, ce n'è abbastanza. Ce n'è per tutti i gusti, ricordiamo, allora dal 1 agosto e quindi fino a tutto agosto e anche oltre, in autunno e in inverno, Fox Retro su Sky. Summertime. Sta nervatura, metta tutto un faccio amore, i so pazzo. Ma chi dice che ma sa niente, poi nero non sia più bello. E non sono mio mano, sono pure diplomato, e la faccia nera l'ho dipinta per essere notato. Masaniello, eroe o pazzo? Questo è il problema, lo diceva anche Pino Daniele nel famoso hit che abbiamo ascoltato, ma lo chiede anche Emanuele Morgese del Teatro Zeta dell'Aquila, che stasera al Teatro di Verdura a Milano rappresenta Masaniello, l'uomo, l'eroe, il mito. Emanuele, Masaniello chi era? Masaniello era uno pazzo, proprio, iso pazza, è verissima, era uno che credeva nella libertà era un pescivendolo che con la testa calda, un po' pazzo, che si inventò questa rivoluzione che in 10 giorni vide a Napoli Masaniello protagonista e diciamo quasi padrone della città. È la prima rivoluzione vera e propria del popolo, prima di quella francese che tutti conoscono. Quella di Masaniello è caratterizzata perché è una rivoluzione popolare in senso stretto. Fu fatta da un pescivendolo pescatore, ecco appunto come era Tommaso Agnello d'Amalfi. D'Amalfi è patronimico, a lui era napoletano, e questo Lazzaro riesce a sollevare la popolazione un po' grazie anche alle spalle c'era il cardinale Don Giulio Genoino, che era un rivoluzionario appartenente alla borghesia napoletana, che aveva tentato già anni prima di fare un colpo di Stato, ecco, contro gli spagnoli. Il popolo di Napoli si solleva e in 10 giorni c'è la parabola discendente di Masaniello, che prima osannato dal popolo napoletano quale capitano generale del popolo, viene poi ucciso dallo stesso popolo che lo tradisce. E lo spettacolo termina con una frase che Bernardì, che è la moglie di Masaniello, alla moglie, morendo tra le braccia della moglie, dice Masaniello alla moglie: Bernardì, agente ingrata. La gente ingrata, ed è un po' il leitmotiv di tutto lo spettacolo, perché Masaniello è la gente, Masaniello è il popolo, è un po' una storia che si ripete nei secoli. La scrittura di Masaniello fatta da me indica proprio questo, vuole essere un'apertura di una lingua napoletana rivisitata, ed è un testo che l'abbiamo immaginato non napoletano in senso stretto, quindi la rivoluzione di Masaniello come rivoluzione molto più ampia, come rivoluzione dei poveri contro i ricchi, dei soprusi. È banale dirlo, ma il messaggio di una rivoluzione è sempre bene o male lo stesso, appunto, è il nome della libertà, e tutti i personaggi all'interno dello spettacolo cantano. Quanti sono, infatti io quello che ti volevo chiedere, è uno spettacolo, un monologo, oppure è un musical, che cos'è questo spettacolo, quanti sono gli attori in scena? Allora, io l'ho ribattezzato pasticcio teatrale, perché gli attori cantano, gli attori ballano, però è prosa, è uno spettacolo di prosa, sono 5 gli attori, ma 2 degli attori fanno più ruoli, quindi diciamo sono 8 personaggi più un altro personaggio che fa appunto un'apparizione, quindi diciamo 8-9 personaggi, ma fatto da 5 attori. Ovviamente i personaggi principali: Masaniello, Bernardina e la moglie di Masaniello, poi c'è il viceré di Napoli, interpretato da Luca Serani, e poi c'è un personaggio, la voce del popolo, fatto da un femminiello, ecco, questo femminiello molto sulla linea di De Simone, De Simoniana, vuole essere la linea guida di tutta la storia che racconta, quindi è un teatro tra la narrazione e la rappresentazione, quindi c'è questo femminiello che introduce tutte le scene, fatto da Andrea Fiorillo in maniera, devo dire, pregevole. E poi, tipo narratore, quindi questo... Questo femminello ha questo ruolo? Sì, e infatti la gente ride, perché ovviamente questo femminiello è molto colorito, è appunto la maschera di Napoli, la voce del popolo, ed è quello stesso popolo che poi a un certo punto abbandona Masaniello, è lo stesso femminiello, prima innamorato, prima vede Masaniello come un mito, poi dopo lo lascia, lo abbandona, dice ma insomma questo fa solamente i suoi interessi, quindi come tutto il popolo napoletano abbandonerà Masaniello. Senti, perché tu questa è la compagnia Teatro Z dell'Aquila, giusto? Però rappresentare... Sì. Tu sei napoletano? Sì, io sono napoletano. Assolutamente, anche perché non si potrebbe mai rappresentare un Masaniello che non fosse napoletano, per carità di Dio. Viene giù il vomero, viene giù. Assolutamente, perché tu sai come noi napoletani siamo dei puristi in un certo senso, anche da un punto di vista poco, pochissimo, pochissimo. Poi soprattutto poco orgogliosi della vostra città. Leggermente, quindi gli attori vengono in parte da Napoli. Devo dire la verità che 3 degli attori abruzzesi, aquilani, che sono con me, Rossella Teramano, appunto Luca Serani, parlano anche loro con un accento volutamente napoletano, quindi si sono amalgamati con gli altri due attori, che è appunto la Parisi e Fiorillo, che sono napoletani in senso stretto. Però voi continuate a rappresentare, malgrado poi ci sia stato il terremoto, ecco, che il Teatro Z dell'Aquila in che condizioni sta messo? Riuscirete ad aprire la stagione il prossimo anno? Non credo. Allora ti spiego. Teatro Z, sì, appunto, Masaniello, forse il trade union tra Napoli, io napoletano mi sono trasferito 7 anni fa rappresentando Masaniello all'Aquila, e il direttore allora dello stabile mi volle lì in Abruzzo e all'Aquila. Io ho collaborato col Teatro Stabile per anni e poi ho deciso di creare questo spazio che si chiama Teatro Z. Il teatro fisicamente è in piedi, è l'unico teatro agibile della città, direi tu. Che fortuna, sì, certo, da un lato sì, sicuramente. Mancano gli spettatori, però. Mancano gli spettatori, non solo, abbiamo subito anche degli enormi danni materiali, perché oltre al Teatro Z io dirigo la stagione Volo Libero insieme a Corrado Delia con la collaborazione dell'ATAM al Teatro Sant'Agostino, e lì al Teatro Sant'Agostino, prima del terremoto, fino al giorno 4 di aprile, siamo stati in scena col caso Dorian Gray per la regia di Pino Nicol, un testo di Manfredi, e lì, diciamo, è crollato tutto, abbiamo perso tutto il nostro materiale tecnico. In questo momento ci troviamo a Spilimbergo, sempre in tournée col Masaniello, dove col Masaniello e l'altro spettacolo che è Federico II, siamo al Folk Fest. Federico II di Svevia? Sì, siamo stati appunto in Friuli in questi giorni, e quindi questa sera poi saremo appunto a Milano con il Masaniello. Senti, Emanuele, ma tu sei un appassionato di storia, visto che fai questi spettacoli proprio sono su laureato. Questi persi... ecco. Sono laureato a Napoli storia del teatro, ma ho fatto tutto un percorso di storia, quindi sì, sono testi che scrivo, ma tutto nasce da una passione attoriale più che da un lavoro di drammaturgia vera e propria. L'attore che ha il desiderio di mettersi in scena, poi con gli anni, considera che Masaniello, che rappresentiamo appunto questa sera, è alla 68esima replica. Ecco, quindi, senti, siccome tu ci hai promesso un piccolo brano, ce lo vuoi leggere? Anzi, mi hai detto no, ma io me lo ricordo a memoria, ovviamente, siccome tu interpreti alla 69esima replica, lo sai sicuramente a memoria. Ecco, ci vuoi dare una chicca di questo spettacolo? Perché non tutti possiamo andare al Teatro di Verdura a Milano. Certo. Se vuoi ti mettiamo anche una base, una piccola base. Guarda, musicale, se ti serve. Essendo Masaniello, molti pezzi sono urlati, quindi... Allora non te la mettiamo, perfetto. Girare le persone che sono qui. Ti recito solamente una parte prima che Masaniello entra a Palazzo Reale, poi ho immaginato che entrando a Palazzo Reale il vicerello gli darà un antidoto, in cui appunto Masaniello uscirà pazzo, è un po' romanzata come storia. Quindi prima di andare a Palazzo Reale Masaniello dice: popolo e Dio, popolo caro e amato, si è resa grazie a Dio per libertà cacciarata. Chi mai so poteva credere che io, Masaniello Pisciavinnala, fosse invitato a Palazzo Roduca? Ma pare un suo nome a verità, avim a rendere grazie a Dio, alla Beatissima Vergine Santissima, eppure al Cardinale Filomarino nostro pastore. Sim libera, non avim a pavacchio e gabella, io vo giuro, io per me non voglio niente, sta veste argenta, sta veste che porta un collo non è a mia, ma va stretta, io so come a voi, so figlia sta città, so Pisciavinnala e pisce vaga a vendere per campà, so nato in mezzo mare, so libera, con Manu Gabbiana. Con Manu Gabbiana, cavolo in goppo mare. Con Manu Gabbiana, cavolo e va lontana. Beh, molto bello, l'hai scritto te il testo, ovviamente, no? È un tuo testo. Senti, ma ti capiscono a Milano con questo accento napoletano? Ma guarda, no? Perché... pochi giorni fa siamo stati a Legnano. E com'è andata? E la cosa divertente è come siamo arrivati con il furgone. I miei tecnici mi dicono: Emanuele, ma siamo nel palazzo, di fronte ci sono delle bandiere leghiste con i fiori, con le croci. Dice: ma lo capiranno qui oppure non verrà nessuno stasera? Invece devo dire la verità, che al di là delle battute o di quello che si può dire, fortunatamente, come dicevo, il napoletano e questo testo è veramente, ha una sua universalità, e devo dire la verità, è stato uno degli spettacoli più belli tra i 68 che appunto si abbiamo messo in scena. Il pubblico quindi anche a Legnano, anche a Legnano, il popolo della Lega Nord di Osanna, Osanna Masaniello, perché è un eroe popolare, perché poi in questo Umberto Bossi, il leader della Lega Nord, è molto attento a tutto quello che viene dal popolo, di qualsiasi parte d'Italia sia, no? Quindi anche di Napoli. Assolutamente sì, quindi è un messaggio che arriva comunque a tutti, ed è un napoletano, adesso ecco detto così, ma c'è ovviamente la scansione molto più leggera, tra virgolette, poi c'è il vicere che parla in lingua, che il femminello si capiscono, ma Daniele è quello che parla un po' più napoletano degli altri. Un po' edulcorato questo napoletano. Sì. Tuttavia, ripeto, ci siamo meravigliati e speriamo appunto di bissare al Teatro di Verdura, perché è un esperimento. Non sono mancate appunto giri al nord con questo spettacolo che diciamo ha fatto un po' la fortuna di Teatro Z, e di Teatro Z anche all'Aquila, perché se esiste la struttura è anche grazie ai fondi raccolti dagli spettacoli e dal lavoro che negli anni ha portato questo Masaniello, quindi sono molto legato a questo spettacolo, e ogni anno dico vabbè, quest'anno basta invece continuate. Allora ricordiamo, stasera e domani al Teatro Verdura, Masaniello, l'uomo, l'eroe, il mito, ore 21, giusto Emanuele? Sì. Emanuele Morgese, di e con Emanuele Morgese del Teatro Z dell'Aquila. In bocca al lupo, Emanuele, per la prossima stagione all'Aquila. Sì, ringrazio gli ascoltatori, spero che ci seguano sul sito teatroz.it, dove ci sono le nostre attività e il nostro appello proprio per la rinascita della città e per aiutare appunto la compagnia teatrale ad andare avanti. Ecco l'estate, la tua breve volontà svaniva, mentre dicevi che non eri mai rinata prima, e mi lasci sulle labbra al sale, nella bocca le parole che non sapevi dirmi, perché è un limite per te, per me il limite non c'è. Surf and shake, shake, shake, and twist and shout. E con questo ci salutiamo, almeno per oggi. L'appuntamento è domani alle 10, dalle 10 alle 11 con Summertime. Io ringrazio Paolo Corleoni in regia, Gloria Guerrera in redazione, e vi ricordo che ci potete scrivere a summertime@radio24.it. Una buona giornata da Elisabetta Fiorito.